Thank you. Thank you. som mister Adam. Infetta, più infetta furia. Frasca, finisce, cicaletto. In crizzi di frivolo, frivendo in fronda. Thank you. Thank you.